E mentre lo risistemavo sullo scaffale, ho avuto l'illuminazione. Lascerò che sia l'arte a guidarmi nella mia scelta. Ho preso il libro e l'ho aperto alla quarta di copertina. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È venerdì 4 marzo 2011, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Avevo un professore di economia aziendale che ripeteva spesso questa frase qua: la realtà supera sempre la fantasia. È una cosa che ho constatato spesso poi negli anni, però la cosa che mi sembrava strana era che a dirlo non fosse un docente di letteratura, ma uno che parlava tutti i giorni di profitto e conto economico. Ho sempre pensato però che se a dirlo era uno come lui, cioè uno che aveva a che fare con l'economia e non con i romanzi rosa, beh, allora doveva essere proprio vero. E tutti, alla fine, lo hanno sperimentato sulla propria pelle. Tutti si sono accorti che la vita vera spesso è talmente assurda da diventare grottesca. Prima o poi chiunque ha pensato che quello che gli era successo era così paradossale che se l'avesse visto in un film, se l'avesse letto in un libro, sarebbero stati un brutto film o un brutto libro. Perché il fatto è che le storie che noi leggiamo o le storie che vediamo su uno schermo hanno delle regole, hanno passaggi logici, hanno dei nessi conseguenziali, fondamentalmente hanno un regista o un autore che le scrive. La vita no. La vita accade e basta. Ecco perché tutte le storie d'amore potrebbero essere un romanzo. Quelle più lineari e quelle più tortuose, e quelle più felici, quelle più drammatiche, tutte le storie d'amore hanno qualcosa di interessante per essere raccontate. Ecco perché se avete voglia di farlo, io sono qui. 80024 0024 349 238 6666. Il gioco è esattamente questo qui, è che se avete vissuto, state vivendo una storia d'amore che ha qualcosa di particolare, proprio perché tutte hanno qualcosa di particolare, la vostra storia d'amore può entrare a far parte di una categoria di romanzi o una categoria di film. Vi faccio alcuni esempi di categorie, così proprio random, che so io, le grandiosi storie d'amore tragiche fanno parte di quella categoria cui appartengono film come Titanic, ad esempio. Se la vostra storia d'amore invece è tipo una favola, allora è una roba simile a Pretty Woman, oppure film come Orgoglio e Pregiudizio, come Shakespeare in Love, che sono proprio storie d'amore d'altri tempi. Ma ancora, l'amore ai giorni nostri, tipo Harry ti presento Sally, oppure storie d'amore metafisiche, film come Ghost. Qualsiasi sia la vostra storia, se avete voglia di raccontarla, può diventare un romanzo. 80024 0024 349 238 6666. Vi faccio qualche esempio. Elisa mi scrive: la mia storia sembra beautiful. Io gli piaccio, ma sto con un altro. Passano 2 anni, lui mi piace, ma sta con un'altra. Passa del tempo, mi metto con un suo amico. L'amico mi molla e io odio gli uomini. Lui mi fa la corte per 7 mesi e tra vari incidenti ad ogni appuntamento io cedo. Dopo 10 anni e una bimba insieme rifarei tutto da capo. Questa è una roba, boh, che beautiful, sembra quasi... potrebbe essere L'ultimo tango a Parigi, qualcosa che c'ha sotto qualcosa di hardcore. Barbara: proprio quando ci pensavo, alcuni amici cominciano tutti così i messaggi. Era proprio un periodo in cui non mi interessava, era un periodo in cui non ci pensavo, non stavo cercando niente. Invece alcuni amici organizzano una serata a Simpson. Era una serata in cui si guardano tutti i cartoni animati dei Simpson. Non stop, puntate fantastiche. Lì un tipo continua a fissarmi. Direi che quasi mi infastidiva il suo modo di fare. Nel bel mezzo della serata mi invita ad uscire e patatrac, scrive Barbara. Colpo di fulmine e nel giro di qualche mese ho definitivamente ammainato la mia bandiera dell'indipendenza. Ovviamente il mio sarebbe un film con Homer e Marge. Ve ne leggo qualcun altro, questa è bella. Bruno: mia moglie suole dire che ho comprato un hamburger e per regalo ho trovato un marito. La storia è questa qua. Aeroporto di Miami, 1996. Io ero con Franco, il mio migliore amico, in attesa del volo per Santo Domingo. Andiamo a mangiare al Burger King. Nell'attesa del nostro turno arriva una bella figliola. Ci guardiamo vicendevolmente, ci sorridiamo. Lei in divisa. Era una hostess di American Airlines. Anche lei deve mangiare. Iniziamo a chiacchierare. Mi aiuta un po' Franco con l'inglese. Scocca una scintilla. Parliamo fino a quando non ci avviamo al gate. Lei finisce di mangiare quasi ingozzandosi. Ci segue, ci aiuta a imbarcarci. Le regalo una musicassetta di Eros Ramazzotti e la parola chiave di tutto questo messaggio è Ramazzotti, signori miei. Ci scambiamo i nostri numeri di telefono, lei in Colombia, io in Italia. Ora eccoci qua, a distanza di 15 anni, viviamo a Castenaso, 2 figli ed una vita davanti. PS, odiamo entrambi i fast food. Questo potrebbe essere un film con Jennifer Lopez. Cioè, come si chiama quello con Jennifer Lopez e George Clooney? Buonanotte. 800240024 349 238 6666. Guarda, ve ne leggo altre. Luisa: ho conosciuto lui in un circolo sociale per anziani. Nonostante le buone intenzioni, come romanzo non parte bene. Questa è una roba tipo La montagna incantata. O no, magari potrebbe essere tipo Pranzo di Ferragosto. Un altro. A Daniele: innamorato di lei da bambino, dopo 40 anni l'ho rincontrata su Facebook. Ho mollato tutto e tutti e me la sono sposata. Non ho visto il film su Mark Zuckerberg, però il film potrebbe essere quello. Il film è esattamente quello, Daniele. È The Social Network. Qualsiasi sia la vostra storia, la facciamo diventare un romanzo. Voi me la raccontate e troviamo il titolo e la categoria a cui appartiene. 800240024 349 238 6666, perché la storia che mi è successa ieri ha a che fare con i romanzi. Stamattina in biblioteca non ho fatto altro che pensare. Ho raggiunto quella fase di automatismo nel lavoro che mi permette di fare le cose senza concentrarmi per forza sulle cose. Penso di aver fatto male a guardare quelle vecchie foto con Giulia. Non è che stia male, eh? È che sto semplicemente peggio di ieri. E alla fine sono sempre convinto che sia meglio stare bene che stare male, quindi non le guarderò più. Però rimane sempre la questione dell'accettare o non accettare il suo invito a cena o per un caffè. Intanto, appena arrivato stamane sul bancone, io, Ciccio e Nonna Papera abbiamo trovato la seconda cartolina da Valencia. Questa volta Giovanni sembra un po' meno allegro di prima. Si capisce che c'è qualche complicazione, però non si capisce quale. Io non ne so nulla di queste cose e non chiedo. Ciccio invece ha mandato una mail ad un amico medico. E pare che gli intoppi che possono capitare siano migliaia. Tutti con una probabilità molto bassa, ma tante basse probabilità nella mia testa ne fanno una gigante. Mentre Ciccio leggeva la mail di risposta del suo amico, è arrivato un gruppo di ragazzini, giovani, molto giovani, di quelli che non ti aspetti di vedere in biblioteca. Perché pieno di pregiudizio come sono, penso che un sedicenne abbia in testa le cose che avevo in testa io a 16 anni e non ero certo i libri della biblioteca. In tre sono rimasti fuori. Uno di loro è venuto verso il banco della restituzione. Mi ha dato la tessera e poi ha appoggiato il libro sul banco ed è uscito. Ho sentito il telefono che mi vibrava in tasca. C'era un messaggio di Natalie. E subito mi è tornato in bocca il sapore che per un attimo avevo perso. Quello dell'incertezza. Ecco sì, per un attimo avrei preferito tornare indietro di qualche mese. Da quando ancora pensavo che dire sempre e solo la verità fosse un valore assoluto. Perché in quel caso non avrei avuto dubbi, no? Sarei andato da Natalie e le avrei detto: guarda, ho incontrato la mia ex. Mi ha chiesto di bere un caffè. Tu non ti preoccupare, non è niente di che, è solo per fare quattro chiacchiere. Oppure no, meglio ancora, le avrei detto: senti, non ho ancora deciso se andarci o no, tu cosa ne dici, eh? Lo decidiamo insieme? Sì, ero veramente un cretino 5 mesi fa. In più c'è un'altra cosa che mi spiazza. È una piccola certezza che io avevo, ma che ora mi sembra crollare. Avete presente l'antico adagio che gli uomini tra di loro si dicono da sempre, no? Nel segreto dei loro incontri maschili davanti ad una partita di Champions o durante una battuta di caccia alla volpe, quelle robe da maschi. L'adagio che recita che le donne capiscono sempre tutto. Che quando sei con una donna da tempo, ma anche da qualche giorno, lei sente molto più di quanto tu dica. Perché una donna sa leggere i dettagli, riconosce una piega del viso, una smorfia. Una donna è sempre un po' strega, percepisce le endorfine che si rilasciano quando menti, sente frequenze che gli umani nemmeno sanno che esistano. Insomma, ecco, tutte quelle certezze lì sul sesto senso femminile mi stanno un po' crollando. Perché sono 2 giorni che questa cosa mi tormenta e Natalie non si è accorta di niente. Sì, lo so che cosa stanno pensando tutte le donne in questo momento. Lo so che stanno pensando: bello mio, tu pensi che lei non si sia accorta. Ma lei non solo ha capito tutto, ma sta già imbastendo una strategia che girerà la cosa a suo favore e prima o poi qualche messaggio te lo manderà. E non lo so, è forse così, forse avete ragione voi. Però fino a quel momento l'unico messaggio che mi ha mandato era l'SMS che diceva di ricordarmi che stasera sotto casa c'è il lavaggio delle strade. Ho rimesso il telefono in tasca, ho preso il libro che aveva restituito il sedicenne e ho guardato il nome dell'autore per risistemarlo sullo scaffale. HHILM, eccolo qua, M, Moccia, Moccia Federico. Le prime volte lui si era opposto, ma poi pensò: ma chi me lo fa fare? E da quel giorno a poco si abituò. Un mese dopo non beveva altro. Antonio però rideva, ah ah ah, ah ah ah. Diceva me ne infischio della moda, ma bevo questa bibita perché mi va. E mentre lo risistemavo nello scaffale, ho avuto l'illuminazione. Lascerò che sia l'arte a guidarmi nella mia scelta. Ho preso il libro e l'ho aperto alla quarta di copertina. Step è partito e sta per tornare. Sta per scoprire che niente è mai uguale a come lo avevi lasciato. O meglio, a come ricordavi che fosse. Così tutto cambia e rivela la sua vera faccia. Step sulla sua moto per le strade di Roma ritrova la banda dei Budokani, cresciuta e forse diversa. Schello, Lucone e gli altri, sempre ribelli ma un po' più consapevoli. Il dolore lascia dei segni dentro, prima ancora che sulla pelle. Anche Babi troverà delle risposte. Step imparerà che non sempre in amore sappiamo ciò che vogliamo davvero. Anche quando ci sembra di essere sicuri. Ecco, e qui io ho avuto un sussulto. Io ho pensato che non potesse essere un caso. Cioè, io avevo deciso di affidarmi alla letteratura e la letteratura si stava prendendo cura di me. Era come se quella storia stesse dicendo delle cose che mi riguardavano da vicino. Come se quei personaggi fossero tutti un pezzetto di me. Con il cuore in subbuglio, sono andato avanti a leggere. Scopriremo che il perbenismo è solo il tentativo inutile di rendere perfetto ciò che non lo è, che non può esserlo in nessun modo. Lo capirà sulla sua pelle la famiglia Gervasi. Scopriremo anche che il rapporto interrotto tra un figlio e sua madre può riservare risvolti inaspettati. E se tutto esplode e non va come doveva, c'è sempre spazio per un sorriso e per ricominciare. Ecco, e qui io mi sono fermato un secondo per cercare di capire che cosa intendesse Federico con questa frase. E se tutto esplode e non va come doveva, c'è sempre spazio per un sorriso e per ricominciare. Che cosa voleva dire? Era forse un messaggio che dovevo recepire? Federico Moccia torna col suo stile diretto e intenso a mostrarci come il presente si intreccia sempre al passato. Prima di diventare futuro. Un futuro non scontato, perché nemmeno l'amore lo è mai. Finalmente l'attesissimo seguito di 3 metri sopra il cielo, perché nessuna storia finisce mai davvero. E a volte si trasforma in ciò che non avresti mai potuto immaginare. E dava il fumo a tutti, scongiurando l'astinenza terapeutica. E ci facevano compagnia un bancone, i nostri crolli esistenziali. Due soldi, sono passati 5 anni e credi, perché ha tanta sete, sono molti, ti ho già detto il mio nome, non ti ricordi di me, ordina ancora da bere e fammi ridere, ti ho già detto il mio nome, non ti ricordi di me, ordina ancora da bere e fammi ridere. Forse avrei dovuto fare come Step o come Babi, tornare a casa e attaccare dei lucchetti su un ponte dei Navigli. Forse avrei incontrato anche io una Jean, diminutivo di Ginevra, una ragazza bella e decisa con un piglio totalmente opposto rispetto allo snobismo di Babi. E poi magari proprio come Step anche io mi sarei lasciato andare all'alcol. E poi avrei rincontrato Babi e ci sarei andato a letto prima che lei si sposasse. Allora, in preda ai sensi di colpa, sarei tornato dalla mia Jean, diminutivo di Ginevra, confessandole tutto, poi un lutto e l'incontro al funerale sotto degli ombrelli neri, in un cimitero di quelli con le lapidi spesse, le collinette d'erba dove piove a dirotto, perché ai funerali piove sempre, con la pioggia leggera, che lava via tutte le colpe. E magari sarei finito anche io, davanti a casa della mia Babi, a scrivere sul muro «Ho voglia di te». Poi invece ho fatto la cosa più saggia. Ho messo il libro nello scaffale, vicino a 3 metri sopra il cielo, scusa ma ti chiamo amore, scusa ma ti voglio sposare. Ho salutato Ciccio, nonna papera, e sono uscito. Ti ho già detto il mio nome, non ti ricordi di me, ordina ancora da bere e fammi ridere. Ti ho già detto il mio nome, non ti ricordi di me, ordina ancora da bere e fammi ridere. Sposarsi, diceva Schopenhauer, significa mettere la mano in un sacco con gli occhi bendati e sperare di tirare fuori un'anguilla da un mucchio di serpi. Lo scrive Giordano, che dice: le mie storie d'amore non potrebbero diventare un romanzo o un film, al massimo qualche puntata pilota che nessuno vuole vedere. 349-238-6666 invece. Allora, un po' di storie d'amore da inserire in categorie. A parte questo messaggio, oggi sei sul genere straccia mutande? Qual è il genere straccia mutande? Ero in un locale, lei faceva la modella e ha mollato per me. Abitavo in Lituania, andavo ogni mese, quando poteva veniva lei. Con la loro famiglia un ottimo rapporto, ora viviamo insieme a Milano. Un grande amore a distanza per più di 2 anni basato sulla fiducia. Ciao. Questo sembra tipo Closer. Cioè, spero per te che non sia tipo Closer. Una ragazza con cui stavo l'ho conosciuta su internet proprio quando stavo decidendo di chiudere con le chat. Le rispondo e dalla fine 2 anni e mezzo assieme. Valerio. Questa è C'è posta per te. Il film però, non il... Ho perso un amico 1 anno e mezzo fa, da allora, anche se non la vedo, no scusa, 15 anni fa, non la vedo da più di 10 anni, penso sempre di più a lei, credo di esserne stato innamorato senza saperlo. Harry, ti presento Sally, secca questa. La mia può essere la guerra dei Roses, Gianluca di Assisi, però possiamo immaginare come sia, però magari se ci dai qualche dettaglio in più. Poi oggi è arrivato un messaggio di una persona che ormai è un po'... una beniamina, anche se è un termine orribile, di questo programma, diciamo è una mia beniamina, ok, così va meglio. È l'ascoltatrice che più volte ha scritto su Facebook, che ha scritto un libro che sto leggiucchiando, Elisa, giuro che lo finirò per la fine del programma, e che mi ha scritto questo messaggio. Il mio ragazzo fa l'alpino, l'ho conosciuto durante un'estate in cui pensava a tutto fuorché comparisse lui. È stata una faticaccia portarmelo a casa, devo ammetterlo, ma è stata una dolce fatica. Doveva ancora iniziare l'addestramento all'epoca, ma non l'ho mai ostacolata, anzi l'ho sempre incoraggiato. Avere il fidanzato nell'esercito per me è motivo di grandissimo orgoglio, nonché una grande responsabilità. Pronto Elisa? Sì, pronto, ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Senti, sì. Come si può intitolare la tua storia d'amore? Prima con Tiziano ci pensavamo, è una roba a metà tra Cime tempestose e Un anno sull'altipiano, probabilmente. Sì, non saprei neanche io cosa potrebbe essere. Certo che se ne avrò l'occasione ci scriverò qualcosa sopra. È una mia abitudine, sono una grafomane, ho scritto tanti. Senti Elisa, tra l'altro prima ci domandavamo, non è lui, per chi non si ricordasse Elisa, non è lui quello di cui stai pagando i 5.000 euro di debito? No, assolutamente. A che punto siamo col debito da pagare, Elisa? Ma guarda, ti dirò, l'ho sentito il ragazzo che mi deve i soldi, mi ha detto che me li ridarà, comunque adesso sta a Londra, è scappato per di là. Guarda Elisa, noi tutti quanti speriamo tanto che lui si faccia risentire, però non possiamo metterci la mano sul fuoco. Raccontami del tuo fidanzato invece, fa l'alpino, quindi è a distanza dove adesso? Non posso dirlo, ho ricevuto il veto assoluto di dare qualsiasi informazione stavolta. Ma da parte sua o da parte dell'arma? Cioè dell'arma? No, da parte sua, non posso dire niente purtroppo. Senti, vabbè, dimmi solo com'è stare con una persona che fa il militare. Ma intanto prima la carriera militare la guardavo come se fosse una cosa schifosa, proprio non... Ricordiamo il passato e il presente metallaro di Elisa, giusto? Sì. Ricordiamo i Sonata Artica, dove hai incontrato il tuo fidanzato. Il mio ex. Ex, sì. Perdonami, scusami, è un po' un delirio, Elisa. C'hai poco più di 20 anni, ma sembra veramente beautiful. Insomma, prima avevi una brutta idea della vita militare, poi? Dopo, conoscendoli, capisci che è cioè, com'è il lavoro per loro, capisci che non è sempre semplice, insomma vieni a contatto con la realtà. Ma senti, ma adesso diciamo la sua giornata è una giornata normale al momento, nel senso che lo vedi la mattina e la sera quando torna, oppure a turni particolari? No, io lo vedo solo nei weekend, solo nei fine settimana. Senti, c'è la possibilità che lui parta per una missione? Forse, cioè, bisogna aspettare un annetto per sapere se partirà o no. Per adesso è ancora in Italia. Okay. Poi si vedrà, insomma, lui non vede l'ora di partire comunque. Ah sì? Sì, non vede l'ora di partire. Anche tu, immagino. Beh, io un po' meno, sinceramente, però non gli dirò mai che non può partire, assolutamente. Ricordiamo Il lungo inverno di Saffron, di Elisa, che mi ha spedito e che vi invito ad andare a cercare in libreria. Elisa, io ti ringrazio moltissimo e, insomma, stai sempre con noi, che sentirti ogni tanto è un piacere. Certo, grazie mille per Ciao. Avermi chiamata. Ciao, grazie Elisa, la borsa, e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao, e sto qui. Nella fotografia di oggi siamo in una cucina. Siamo in una cucina di casa che però dice molto, perché in realtà è una cucina semiprofessionale. Ha 1, 2, 3, 4, 5, 6 pomelli, quindi ha 6 fornelli. Ha 6 fuochi. Oddio, poi magari in realtà uno è il forno, però direi di no, dalla struttura è tutta in acciaio, è tutta lucidissima, pulitissima e ha le griglie molto spesse, roba che appunto devi essere un semicuoco per averci una cucina così e per volerla. Sul fuoco ci sono tre pentole e un contenitore sbattuto con una frusta. Però non capisco, c'è qualcosa che cuoce, qualcosa di bianco, potrebbe essere tipo formaggio che si scioglie. Forse è del formaggio che si scioglie e questo rosso scuro è sugo? Marta Casanova, 26 anni, Novi Ligure. Preparando la torta al cioccolato con marmellata di pere nella mia nuova cucina. Io sono qui. Buonanotte, la marmellata di pere. Figurati, questo credevo fosse sugo. La foto è sul sito radio24.it, alla pagina Io sono qui, dove per tutti quelli che mi chiedono i titoli dei brani che mandiamo, trovate anche i titoli delle canzoni. Ogni giorno Valeria e Francesco caricano prontamente tutti i titoli dei brani. Trovate lì, radio24.it, alla pagina Io sono qui. Voglio leggervi quest'altro messaggio che mi era arrivato oggi. È un messaggio di Marco, che potrebbe essere... vediamo alla fine del racconto se mi viene in mente. Avevo deciso di rientrare dal Nicaragua per vari motivi. Primo, ero rimasto solo, il mio compagno d'avventura era tornato a Londra. Secondo, non riuscivo più a reggere il ritmo, lavoravo giorno e notte, insegnavo di giorno e di notte dovevo occuparmi del convitto maschile della scuola. Terzo, mi sentivo poco bene e sarà lo stress e l'ansia, avevo il terrore di rimanere lì da solo ad ammalarmi. Ma soprattutto lei mi aveva detto che era finita, che era meglio per entrambi e che sarebbe andata negli USA dalle sue sorelle. Quindi quel giorno ero andato a Managua per incontrare Sir Lucy e a dirle che rientrava in Italia. Arrivati in autobus a Managua, vidi lei con la sorella che aspettava l'autobus per tornare a casa. Allora mi precipitai, scesi dall'autobus in corsa pensando: se mi dà solo uno spiraglio, solo una possibilità, mi fermo qua e sia quel che sia. Mi disse: ok, vediamoci e parliamo. E così rimasi in Nicaragua. Da allora siamo insieme, da 17 anni e due figlie. Se non l'avessi vista la fermata dell'autobus sarebbe stata tutta un'altra storia. E invece noi siamo qui. Grazie Marco. Giustamente Tiziano suggerisce la canzone di Carla, di Ken Loach. E intanto mi scrivono: io ho una storia di verità che non esiste in commercio. Come si fa a scriverla, a pubblicarla? A chi ci si rivolge? A scriverla è abbastanza facile, ti metti lì col tuo computerino, col tuo block note e se la scrivi. Pubblicarla, la prendi, la stampi e la invii a tutti gli editori possibili. Prima o poi qualcuno ti risponderà, anche semplicemente per dirti: non fa il caso nostro. Titolo: la donna dei miei sogni. Dopo 20 anni di matrimonio con la mia splendida moglie coetanea, 43enne, bang, mi innamoro a prima vista perdutamente di una prof 51enne. La donna della mia vita, Gabriele. Questo è a voglia, qui ce n'è di film. Niente, neanche Tiziano viene in mente. Però ci verrà. Matteo, la mia storia d'amore è a proposito di Harry, nel senso che per incontrarla mi sono schiantato in auto, non l'ho più vista ma la amo. Luigi: dopo 5 anni mi sono lasciato e fra 2 settimane vado a lavorare a New York. Sono un cliché. Sì, mi dispiace dirtelo, sei un cliché, però saresti stato un cliché ancora più grande se invece che a New York tu fossi andato a Barcellona. Andiamo però a Venezia, andiamo da Antonia. Pronto Antonia? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo, grazie. Senti, la tua storia potrebbe intitolarsi: mi scrivono al mare. Al mare o travolti da un insolito destino. Raccontamela allora. Niente, tanti anni fa, adesso sono un po' vecchiarella, e tanti anni fa avevo 33 anni, lui ne aveva 40, tutti e due, io separata, lui sposato, cliché qui. Sì. Però travolti da un insolito destino. Chi se ne frega, i cliché alla fine servono a quello, no? Perché sono reali e hanno un senso. Per essere felice. Uh-huh. Ci sentiamo ancora. Sì. Però lui sta lì e io sto qua. Io sono qui. Ma scusami, quindi lui non ha lasciato la... No. Ah, ok. Da quanto tempo va avanti? È un coniglio. 1980. Dal 1900, da 30 anni sì. Ogni quanto vi vedete, Antonia? Oddio, prima ci vedevamo spessissimo, perché avevamo tutti e due un'attività al mare e di conseguenza iniziavamo a maggio, finivamo a settembre. Adesso? Il nostro destino. E poi abbiamo chiuso nel 90 e ci siamo visti 3 volte in questi anni qua e basta. Scusami. Però ci sentiamo al telefono sempre. 3 volte in quanti anni, perdonami, ti ho perso Antonia? In 11. In 11 anni? No, 21. 2000? No, 11 anni. In 11 anni 3 volte. Senti, ma e tu non hai avuto altre storie? Non sei incuriosita da altri uomini? No, non mi interessano perché non ce ne sono. Antonia, questa è veramente la donna della porta accanto di Truffaut. Non so se l'hai visto, ma... Sì. l'ho fatto io. Antonia, ti auguro tanta fortuna. Matteo, posso farti complimenti? Va bene. Io ti ascolto sempre. Va bene, ti ringrazio molto. Sei bravissimo. Grazie Antonia, grazie mille. Ciao Matteo. Buona giornata. Ciao. Andiamo da Dario. No, andiamo da Gioia da Treviso. Pronto, Gioia? Ciao. La tua storia, storia potrebbe essere paragonata alla Bella e la Bestia, mi hai scritto. Perché? Adesso io la Bella e la Bestia non me la ricordo tanto bene, però non tanto per la mia bellezza. Mm-hmm. Vabbè, sono carina, per carità. Però non buttarti giù, infatti, Gioia. No, infatti io dico sempre sono bellissima. Brava. Però intanto devo farla modesta. Però non era sulla bellezza la questione, mi sembra no, di capire. No, assolutamente. La questione è sul mio compagno. Ci siamo conosciuti in chat. In chat, ok. E niente, poi abbiamo deciso di conoscerci e adesso siamo assieme da 8 anni e quella che non è ancora la mia suocera mi dice sempre che l'ho cambiato perché in effetti era un po' freddo, abituato a pensare sempre al singolare. Gioia, senti, scusami, togli una curiosità, delle storie che nascono in chat, quanto tempo ci si mette prima di conoscersi vis-à-vis? Io ci ho messo un mesetto. Mesetto e mezzo. Sentendovi ogni quanto però durante quel mese? Ci si sentiva spesso, quasi, non dico ogni giorno, però un giorno sì, un giorno no, al telefono. E poi ti lascio andare, e abitavate vicini? No, lui è di Verona. Tu sei di? E io sono di Venezia. Adesso abitiamo entrambi a Treviso. Ok, insomma, però non eravate uno di Roma e uno di Buenos Aires. Gioia, ti ringrazio molto e ti faccio tanto in bocca al lupo. Ciao, grazie, buona giornata, ciao. Grazie mille. Siamo arrivati alla fine. Volevo però, prima di salutarvi, raccontarvi qual è la struttura di una vera storia. Visto che abbiamo parlato di storie d'amore che possono essere raccontate come un romanzo, cioè il protagonista di ogni storia è un eroe e qualcuno ha codificato il viaggio dell'eroe proprio attraverso questa formula, no? Di come l'eroe attraversa diverse fasi per arrivare a compiere la sua impresa e quindi a scrivere un romanzo. Quindi l'eroe fa questo viaggio, parte dal suo mondo, parte dal mondo ordinario, lascia un mondo e comincia un viaggio. Viene richiamato all'avventura. Lui rifiuta inizialmente questo richiamo, fino a che incontra un mentore, una persona che gli dà una mano e lo convince. A quel punto lui varca la prima soglia, cioè accetta la sfida. Incontra dei nemici, supera delle prove. Poi si avvicina alla caverna più reconte, a quella più nascosta, dove c'è la vera prova, è la prova centrale. Di solito qui c'è un rovescio di fortuna, che è temporaneo, che però serve a mettere un po' di suspense. E poi arriva la ricompensa. Cioè, l'eroe sopravvissuto festeggia, ritorna verso casa e c'è una sorta di resurrezione. Non è la prova più grande, ma è quella definitiva. E alla fine, quando ritorna, ha con sé qualcosa che gli dà di più, che lo ha fatto rinascere e lo rende una persona migliore. Non so se voi siate degli eroi oppure no. So che se avete una storia, appartiene a questa categoria.